un indirizzo di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Sul sito della radio domani ci sarà la playlist e il podcast di questa trasmissione, cosa che comparirà puntualmente sui vari riferimenti Facebook, tra cui prove tecniche di trasmissione /disorder, che è la pagina di riferimento di questi due programmi. Ricordo il radioabbonamento che ha avuto una proroga fino al 30 settembre, quindi se si va sul sito si può scegliere eventualmente di aderire a questa forma di abbonamento annuale, 30 euro annuali per 1000 ascoltatori, e questo è il nostro obiettivo. L'anno scorso è andato molto bene, quest'anno ovviamente c'è qualche difficoltà in più per le note vicende legate anche alla pandemia. Thank you.